rispettabili miei fans o non fans di radio eccetera. Sono io, Magic Voice, in carne ed ossa ed in pelle anche, per presentarvi il mio nuovo disco, Il ritorno dei dinosauri. Di notte me li vedo davanti agli occhi, mi alzo la mattina, mi danno il dolce risveglio. I dinosauri sono ritornati sulla faccia della terra e si è incantata di nuovo la sierra. Ma se ancora chi non ci crede, io sono il loro erede. Mamma, mamma, sono ritornati i dinosauri sulla terra. Mamma, mamma, c'è chi non ci crede, io sono il loro erede. Mamma, mamma, sono ritornati i dinosauri sulla terra. Mamma, mamma, c'è chi non ci crede, io sono il loro erede. Dinosauri sulla terra.